Bene, possiamo incominciare. Molti di voi conoscono già Yuri, in ogni caso per chi non lo conoscesse ancora, si tratta di un compagno che finché è stato in Italia, muovendo da un'esperienza militante anni 80, fine anni 80, metà anni 80, anche fine anni 70. Fine anni 70 e poi negli anni 80 nel giro di lotta continua per il comunismo, muovendo da questa esperienza ha cercato di muoversi liberamente per trovare una sua pista, quindi ha sempre avuto una grande curiosità e apertura a idee, a correnti eterodosse, strane, originali, e questi interessi li ha via via combinati con la questione russa, alla quale lui è legato oltre che idealmente sul piano della ricerca e dell'analisi politica per le sue origini familiari. A un certo punto si è trasferito a Mosca, dove dopo aver fatto alcuni viaggi politici negli anni precedenti, e lì ha approfondito queste questioni. E in questi due libri, particolarmente in quello che si intitola URSS, un'ambigua utopia, ha ripercorso un po' tutto il filo della questione russa. Questo libro, pur essendo un testo di sintesi, chiaramente una questione vasta e con tali e tante implicazioni come quella russo-sovietica, non riesce a essere stretta agevolmente in un unico volume, però pur essendo appunto questo un lavoro di sintesi, è ricco di sia considerazioni, tentativi di risposta alle molte domande che stanno in questa questione, sia soprattutto di fonti che per lo più sono assenti nel dibattito, in quel po' di dibattito che si dà in Italia intorno a questi temi. Fonti sia russe sia relative al dibattito internazionale, che diversamente che in Italia in questi anni è proseguito e ha prodotto risultati anche notevoli, significativi, in tutto il mondo anglosassone, ma non solo. Ecco, quindi questo lavoro, al di là delle informazioni e degli spunti analitici che offre, è notevole perché dà conto della produzione scientifica attuale al riguardo. Il secondo è invece uno studio più particolare sui servizi di informazione e sicurezza, soprattutto dell'era post-sovietica, anche se comprende una prima parte in cui viene condensata la storia dei servizi dall'Ucraina alle prime strutture dello Stato sovietico, attraverso poi i passaggi successivi al KGB, fino ad arrivare all'era gorbaciovana e dopo. In questo lavoro, oltre a una serie di informazioni, anch'esse che non si trovano scritte su tutti i giornali nostrani, c'è una parte di particolare rilievo ed è quella relativa alla vexata questio sul rapporto tra i servizi segreti orientali e le organizzazioni di lotta armata in Occidente. Pur non volendo essere l'ultima parola in merito, però di fatto contiene informazioni, riporta testimonianze e documenti che dovrebbero bastare a risolvere una volta per tutte questa questione, anche se la dietrologia è così radicata nella pseudoanalisi politica contemporanea che probabilmente non basterà neanche quest'uso delle fonti russe direttamente. Ecco, queste sono un po' le cose che possono essere dette per inquadrare questo lavoro. L'idea per l'incontro di oggi era di dividere l'esposizione in due parti sostanzialmente. Una prima sull'Unione Sovietica, sui vari passaggi storico-politici e sulle principali interpretazioni a riguardo, e una seconda invece sul presente, sull'era Putin, che ormai data anch'essa da una ventina d'anni. E poi si pensava di mangiare qualcosa insieme e successivamente vedere un film che io non conosco, ma Yuri ha detto essere un film di culto in Russia, uno Eastern Spaghetti, così è stato definito, in realtà ambientato negli anni della guerra civile russa. Su questo poi Yuri dirà qualche parola ulteriore. Ecco, io direi di dare direttamente a lui la parola, cercando di stare nei limiti del tempo, affinché ci sia poi, come è stato ieri, ampia possibilità di interlocuzione, domande e interventi. Allora, se rispettiamo come dire, questa scansione, no? Parliamo prima di questa, per cui affronteremo, come dire, due mini dibattiti, no? Il primo, che riguarda essenzialmente la questione dell'URSS, della dinamica. Quest'anno segnano il 25 dicembre, il giorno di Natale, saranno 30 anni esatti da che venne ammainata la bandiera rossa dal Cremlino e venne issata il tricolore russo, e una seconda parte che più riguarda, diciamo, Putin e la situazione politica attuale. Ma per cominciare con questo primo tema, invece, io proprio comincio da Putin. Cercherò di essere brevissimo per lanciare alcuni spunti. Quando io ho pensato di scrivere questo libro, pensavo a un libro soprattutto di cronaca della perestroica, in cui ci fossero, diciamo, su tre grandi capitoli del libro, chiamiamoli così. Uno dei tre viene dedicato solo al periodo 1985-1991, mentre gli altri due, diciamo, sono dei grandi capitoli che vanno dal 1917 al 1953, cioè dalla rivoluzione fino alla morte di Stalin, e il secondo capitolo, diciamo, il periodo sovietico fino alla guerra, fino, diciamo, all'ascesa di Gorbaciov. C'è sicuramente questo, ma a un certo punto, iniziando a riflettere e a elaborare su questo terreno, mi sono reso conto che bisognava inserire degli elementi che riguardavano la Russia di Putin, perché per capire l'Unione Sovietica noi dobbiamo guardare in profondità la Russia di oggi. Guardando la Russia di oggi abbiamo degli elementi fondamentali per comprendere l'Unione Sovietica. Può sembrare strano, perché di solito la scansione cronologica, in questo libro c'è una scansione cronologica abbastanza precisa, però esiste questa necessità. Cosa ci si accorge a chi appena vive in Russia e osserva attentamente questa società? Ma io parterò da una provocazione, che poi tanto provocazione non è. che la società russa, la società putiniana, essenzialmente non è una società capitalistica. Ma come? Ma come? Abbiamo detto, e io stesso ho sostenuto precedentemente, che si era passati da un capitalismo di Stato a un capitalismo privato, portandomi dietro tutto quel bagaglio, come dire, tradizionale marxista, e adesso la Russia di Putin non è capitalista. Ma io credo che bisogna sempre, pur continuando io a aderire con convinzione al metodo del materialismo storico, pur secondo me avendo la necessità di inserire alcuni altri filoni di riflessione e di pensiero, io penso che bisogna sempre partire dai fatti, da quello che è dalla realtà. Non possiamo piegare alle nostre visioni ideologiche quello che è la realtà. E la realtà russa ci racconta sicuramente di una società dove esistono elementi di capitalismo, ma che a me sembra che l'elemento fondante non sia questo. Nel libro poi si spiega, ma come si giunge? Ma si giunge a volte semplicemente vivendo e poi interconnettendo. Per esempio, mesi fa leggo una notizia: Putin è molto preoccupato perché i prezzi dell'edilizia, degli immobili, stanno crescendo, soprattutto per quanto riguarda la fascia delle nuove costruzioni, dei nuovi quartieri di Mosca, in modo impressionante. Questa ragione viene rimandata al fatto che durante il Covid la massa di lavoro migrante che proveniva sostanzialmente dal Centro Asia, ma anche dal Caucaso, dall'Ucraina, ma in maniera importante dal Centro Asia, è tornata a casa, non c'era più lavoro. E quando è cominciato un qualche segnale di ripresa, mancava forza lavoro. I prezzi degli immobili hanno cominciato a crescere. Ma noi, quando trattiamo di una società capitalistica, pensiamo i prezzi degli immobili sono cominciati a crescere. Ma uno, questo è ottimo. Questo sicuramente viene sentito dagli immobiliaristi, che sono, come dire, uno degli elementi fondamentali, e lo sono anche a Mosca. Il settore immobiliare è stato quello che ha trainato per certi versi la crescita dei primi anni 2000. Ma questo invece in Putin, nel presidente, pone un problema di come gestire, di come calmierare i prezzi, come fare degli interventi da parte dello Stato perché questi prezzi vengono calmierati, e provare a vedere come si fa a recuperare una parte di forza lavoro dall'esterno. Beh, capite che sì, può darsi che tutto questo si possa definire libero mercato, ma con grandi difficoltà. Un altro esempio, ed è un esempio recentissimo, no? Voi andate alla pompa di benzina, voi state per ricevere le bollette del gas e del petrolio, e i prezzi saranno nettamente alti, ma molto tutto ciò arriva dalla Russia per tutta la contingenza economica che sappiamo. Tutto questo ha un vantaggio a breve per la Russia, ma stiamo osservando anche che esiste un grande dibattito, proprio cominciato con Covid, sulla famosa transizione ecologica, sulla green economy, che creerà alla Russia sicuramente dei grandi problemi. Creerà dei grandi problemi e pone fortissimamente il problema della differenziazione della sua economia. Cioè, per lungo tempo la Russia, ma già dall'Unione Sovietica, già da partire dalla metà degli anni 60, quando fu scoperto il petrolio in Siberia occidentale, la Russia funziona, ecco qua una categoria non, come dire, che i puristi del marxismo non hanno mai troppo amato, ma che per comprendere la Russia, secondo me, è fondamentale. La Russia da allora e ad oggi è anche una semicolonia, cioè un paese che fondamentalmente vende materie prime, idrocarburi in primo luogo, ma anche altre materie prime, e acquista prodotti finiti. Non è automaticamente, non è solo questo ovviamente, però diciamo il meccanismo è quello, è un meccanismo sostanzialmente da paese semicoloniale. Sappiamo che questa categoria è stata inserita da, non so neanche se loro si autodefinivano dei marxisti, no? Da Immanuel Wallerstein eccetera eccetera, però come dire, e io penso che senza questa categoria è difficile capire, come dire, i meccanismi di funzionamento non solo della Russia attuale, ma in gran parte dell'epoca sovietica. Appunto, la differenziazione pone dei problemi giganteschi per la Russia, perché è un paese che tra l'altro ha una grande mancanza, ha una grande scarsezza di capitali. I motivi adesso non ve li sto a spiegare, perché staremo fino a stasera a parlarne. Però il momento essenziale è che si sta immaginando, quest'estate il ministro della difesa Shoigu è venuto fuori in modo clamoroso e ha fatto sorridere, come dire, tutta la Russia e anche in parte tutto il mondo, dicendo che la Russia entro il 2040 dovrà avere in Siberia 3 nuove città costruite dal nulla, tra il 500.000 e il 1.000.000 di abitanti, vicino alle fonti energetiche, e che dovrà sviluppare nuove tecnologie, tra cui uno degli elementi essenziali è lo sviluppo dell'energia all'idrogeno. Allora, naturalmente questi, se vediamo, sono progetti statali che vengono costruiti dal niente, in cui sicuramente interverranno alcuni oligarchi a cui verranno date una parte delle commesse, ma sostanzialmente sono progetti statalisti, completamente statali, immaginati, progettati e anche qua. Questo è capitalismo? Si può parlare di capitalismo in questo caso? Ma io me lo chiedo, bisogna vedere di che idea abbiamo del capitalismo. Questo elemento rimanda anche a un altro elemento importante storico della Russia. La Russia si basa, tutti i grandi storici russi, quando parlano che cos'è fondamentalmente la Russia, dicono due cose: la Russia è Stato e colonizzazione. Qua abbiamo la colonizzazione, e di Stato, come vedete, poi non solo dal punto di vista, economico, ma dal punto di vista politico, il ruolo dello Stato in Russia, basta guardarlo, e allora possiamo anche buttarci finalmente in URSS e tornare nel passato e cercare di cogliere, di comprendere, di interpretare cos'è stata l'Unione Sovietica. Per cui io, se posso usare questo termine, in questo libro faccio una sorta di elastico, cioè vado avanti e poi a un certo punto nel secondo capitolo mi fermo e faccio una digressione su che cos'è, su cosa è e rappresenta la Russia putiniana. Io devo dire, per fare un'ultima considerazione, poi naturalmente nelle domande, nel dibattito, io mi rendo conto che in questo caso non parlerò di cosa è stata la perestroica, i motivi che hanno portato al crollo dell'URSS, che ho cercato di affrontare qui, ma mi piacerebbe molto, dialogare. C'è un elemento che ho cercato di mettere in luce, che tutta la storia, anche quella zarista e poi tutta la storia sovietica, è in realtà un progetto di ingegneria sociale. Anche l'Unione Sovietica è un esempio abbastanza classico, dal 1917 in poi. Si tratta di far scendere il cielo sulla terra, da un certo punto di vista. Cioè, abbiamo visto la dimensione imperiale, abbiamo visto la dimensione statuale del paese, ma qua c'è un altro elemento che entra in modo preponderante, è che il tentativo, io lo definisco estremamente, estremamente confuso, di realizzare una società socialista, comunista, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista io recupero anche sicuramente una parte del dibattito teorico e politico, no? che emerse, perché chiaramente diciamo, dal punto di vista storiografico è assolutamente evidente che dopo, diciamo, il biennio triennio 1917-1920 e mancando, come dire, l'ipotesi bolscevica centrale, cioè far irrompere la rivoluzione in Europa dalla Russia, le questioni cambiano e si vengono a porre, come dire, cioè il famoso dibattito socialismo in un paese solo, rivoluzione permanente, ma che io, come dire, provo, come dire, a allargare, pur riconoscendone, diciamo, il suo valore e la sua importanza. Il fallimento, che ormai, come dire, è evidente, è un fatto storico, no? Dopo il 1991, ancora più, se, come dire, quasi tutte le tendenze eterodosse critiche del marxismo avevano già dato per fallita, come dire, a diversi livelli, chi dal 1920, chi dal 1927, chi dal 1956, eccetera, eccetera, eccetera, l'esperienza sovietica, però in realtà nel 1991 si dice, si dà la parola fine. Il mio giudizio è, come dire, è tutto negativo su questa esperienza? Io credo di no, e io provo, come dire, a spiegare, non solo perché, come dire, come dire, è la prima volta che si tentano di fare due uova fritte, in realtà può succedere che si fa una frittata e neanche tanto buona, ma perché sono contenute delle esperienze che rimangono nel cuore di molti russi, nel cuore e nella mente di molti russi, soprattutto in provincia. In provincia, quando a volte si leggono i dati, i sondaggi, no? Che dicono esiste ancora una grande nostalgia per l'Unione Sovietica. Ecco, dobbiamo stare attenti a questo qua, a misurarlo, perché la questione è complessa e bisognerebbe parlarne a lungo. Però esiste un elemento fondante. Basta andare a parlare col primo taxista, con la prima signora, soprattutto nella provincia. Ma che cos'era l'Unione Sovietica? L'Unione Sovietica era istruzione gratuita, sanità e casa gratuita. Poi la qualità e il livello, ne possiamo discutere fino a questa notte. Però rimane ancora questa percezione. E un altro elemento esiste sempre nei sondaggi quando si parla, quando si chiede ai russi qual è il loro valore, considerano il valore principale. I russi hanno una risposta, mettono in cima come primo valore che considerano più importante l'uguaglianza. Allora, voi vi immaginate a Milano o a Roma se facessero un sondaggio del genere che risposte verrebbero fuori? Io penso tutte, ma l'uguaglianza sarebbe veramente difficile. E con questo mi fermo qua. No, non troppo. Iniziamo la discussione. Io ti pongo subito una domanda a considerazione. Quello che mi ha colpito in questo libro, che chiaramente è un saggio in parte storiografico, in parte interpretativo, quindi è soggetto a tutte le discussioni possibili e immaginabili, però quello che mi ha colpito è sostanzialmente il peso che nella esposizione ha il popolo russo, cioè l'esperienza contraddittoria, confusa, ma estremamente estesa di una partecipazione e di una mobilità sociale che è proprio ciò che spesso manca invece nelle analisi critiche dell'esperienza sovietica. Cioè tu di queste analisi conservi e discuti il valore e il peso, ma in qualche modo le poni al vaglio di questa dimensione popolare, proprio dei russi, che è quanto invece spesso manca in analisi anche raffinate, anche giustamente ferme sui principi. Quali sono i caratteri a partire dai quali si può definire socialista o rivoluzionario una società? No, su questo non è stato certo tempo perso applicare la critica, però la dimensione proprio del vissuto, dell'esperienza storica di questa fetta consistente della popolazione mondiale, ecco, è rimasta forse un po' troppo sullo sfondo. Si trattava anche di analisi condotte controcorrente, perché in tutti gli anni di esistenza dell'Unione Sovietica il peso della propaganda sovietica, l'influenza dentro il mondo proletario occidentale era così grosso da rendere estremamente difficoltosa l'emersione di una visione, di un punto di vista alternativo. Quindi erano analisi controcorrente, spesso realizzate anche a rischio della propria integrità di gruppo, però in qualche modo risentono di questo mancato collegamento. Questo è un punto che mi ha colpito parecchio, perché insomma di libri sulla questione russa qualcuno mi è capitato di leggerli, e questa, diciamo, questa coralità anche contraddittoria, perché non è che sia un'unità di interessi, ma questa coralità nel senso della dimensione nel vissuto dei russi è rimasta, ripeto, un po' troppo sullo sfondo. Invece in questo saggio acquista il suo giusto risalto, secondo me. Però, possibile che nessuno sia saltato sulla sedia, ecco, a sentire definire la Russia d'oggi come qualcosa di non capitalista o non direttamente capitalista? No, non è possibile. Quindi domande, interventi. Prego, prego. Confesso che ho letto soltanto uno dei due libri, l'altro non l'ho ancora letto. Vabbè, ma non ce l'ho ancora e quindi lo leggerò. No, e poi sono arrivato tardi alla discussione, me ne scuso. No, mi interessava capire, al di là del fatto che è ovvio che per molti motivi nel giro di un secolo il popolo russo è cambiato, sovietico, russo è cambiato tantissimo, non soltanto per la sua storia, ma per una storia di tutto il mondo. Ma mi interessava molto capire un po' di più uno degli ultimi commenti, l'ultimo commento che hai fatto su quella che è la differenza tra la popolazione più periferica rispetto a quella delle capitali, Mosca in primis, che mantiene ancora dei connotati un po' diversi, e difatti si è visto anche nelle ultime elezioni, insomma, un segnale se non sbaglio. E credo che questo rientri un po' anche nelle caratteristiche del popolo. Tu non a caso l'hai confrontato con quello italiano, che mette al primo posto di una ipotetica graduatoria l'uguaglianza. Il popolo russo è un popolo molto diverso e quanto posso capire io anche molto unito sotto un certo profilo rispetto ad altri. E per cui appunto volevo così alicitare un po' la discussione su questo punto qua delle differenze anche tra grosse realtà della capitale rispetto ad altre. Un pochino più approfondirlo. Vorrei rispondere a questa domanda, perché sennò mi sfugge quello che mi sembra che sia importante rispondere, collegandolo, come dire, al primo tema, perché poi nel secondo tema è chiaro che possiamo affrontare sociologicamente che cosa sono le grandi realtà metropolitane russe di oggi e cosa sono e cos'è la provincia. Cioè, provare a fare veramente un escurso storico. Io lo tratto inizialmente, io nel libro inizialmente tratto tutta la famosa questione del dibattito sul Mir e l'Obiscina di Marx e Engels, che iniziano ad avere un epistolario con intellettuali e attivisti russi, e qui si pone la questione se la Russia potrà evitare il passaggio dal capitalismo, oppure è inevitabile che la Russia debba passare attraverso queste forche caudine. Allora, l'esistenza di questa di queste forme di comunità, naturalmente nel periodo sovietico, come dire, in buona parte sono scomparse, no? C'è stato uno sviluppo industriale, ci sono stati processi di urbanizzazione giganteschi che hanno trasferito, soprattutto dal periodo khrushchevano in poi, perché attenzione che si parla molto dell'industrializzazione staliniana, ma i processi di, come dire, di urbanizzazione importanti e significativi sono comunque quelli del secondo dopoguerra, e quelli che danno la stura veramente all'aumento della produttività russa. Però, per stare un attimino su questo, sono continuati a esistere nella provincia russa degli elementi estremamente, estremamente particolari. Per esempio, l'esistenza di un'economia naturale, cioè per necessità in parte dovuto all'economica del fatto che comunque per tutto il periodo sovietico e anche oggi in Russia sia continuata a esistere un'economia naturale, cioè la gente al sabato e la domenica si coltiva le sue patate, i suoi cetrioli, si fa il samagon, che è la famosa vodka russa, eccetera, rimanda, come dire, a delle relazioni. Prima di tutto è una relazione economica che non è, e questa è veramente non capitalistica, perché se io sviluppo dell'economia naturale, e bisognerebbe vedere negli ultimi anni, dopo, come dire, dopo il 2014-2015, quando l'economia russa ha iniziato a stagnare, quanto si è ripresa poi l'economia naturale, ma se esistono questi elementi collegati per esempio al fatto che per lungo tempo ancora fino al crollo dell'URSS c'è stato il fenomeno della coabitazione, cioè la gente non aveva un appartamento proprio, ma aveva una propria stanza e poi condivideva la cucina e i servizi igienici, collegato con, come dire, anche gli aspetti, come dire, vogliamo dire anche propagandistici del sistema, del collettivismo, della socialità, eccetera, eccetera, è mantenuto in Russia degli elementi, come dire, di collettività, di comunanza, no? Che fanno sì che ancora oggi appunto ci sia questo richiamo all'uguaglianza. Io parlo sempre di taxisti, perché io li chiedo sempre, non perché io vada particolarmente di taxi, non pensate che sia ricco, anzi tutto il contrario, ma i taxi costano molto poco in Russia, e io chiacchiero sempre, no? Perché sia la dimensione, perché anche il taxista russo non è il taxista, no, molto spesso è un doppio lavoro, molto spesso è un lavoro arrangiato, molto spesso col Covid i medici sono scappati dagli ospedali, si sono messi a fare i taxisti, e per cui hai un, come dire, un'umanità che è fortemente differenziata. Non pensate al nostro taxista che ha comprato a 150.000 euro la licenza, ecco, tanto per avere un'idea. E allora parlavo con questo taxista, insomma, io stavo scrivendo il libro, per cui tutti chiedevo, ma l'Unione Sovietica cosa ne pensi, eccetera, eccetera, e questo taxista, che avrà avuto 30 anni, mi ha detto, ma sta di fatto, c'è un fatto sicuro, mi diceva lui, che fino a 30 anni fa avevamo qualcosa di essere orgogliosi, adesso non c'è niente. Questo detto da un ragazzo di 30 anni, uno che l'Unione Sovietica non l'ha mai vista neanche in fotografia. Quando si parla della nostalgia dell'Unione Sovietica, si deve ricordare che non è, io lo dico anche nel libro, non è nostalgia per il periodo staliniano, che i russi attuali non sanno neanche cosa sia, non l'hanno mai visto, ma è paradossalmente per il periodo brezneviano, cioè per quel momento della storia in cui il livello delle disuguaglianze tra il 10% più ricco e il 10% più povero della società è stato più ridotto. Non lo dico io, lo dice Thomas Piketty, che qualcuno forse conosce qua come forse il più grande statistico sulle questioni delle disuguaglianze su scala mondiale. Ha fatto uno studio specifico sulla Russia, su questo punto, e ne parlo anche qui nel libro. È questo l'elemento, secondo me, che dobbiamo veramente tenere in conto. Invece, per quanto quello che dice Robertino, secondo me c'è un elemento importante, e che forse ci sono due elementi, secondo me, importantissimi che vanno considerati. Non esiste ancora una storia popolare dell'Unione Sovietica. Secondo me, per quella letteratura che ho visto, non esiste. Cioè non esiste un libro come quello di Howard Zinn sugli Stati Uniti d'America, cioè che racconti la storia dalla parte del popolo, delle masse, di come l'hanno vissuta, di come è stata percepita. Secondo me questo elemento è un elemento importante che se verrà fatto, se verrà compiuto, darà molte sorprese, perché porrà il problema di una ulteriore rilettura della storia sovietica, perché ancora una volta è sempre stata vista come una storia delle elite, anche delle elite politiche, anche delle elite rivoluzionarie, Trotsky, Lenin, eccetera, eccetera, ma sempre delle elite. Il secondo elemento che io voglio sottolineare, che secondo me è un elemento importantissimo, l'avevo colto vivendo in Russia, ovviamente. Quando io, facendo questo lavoro, ho letto i due volumi di Andrea Graziosi, che probabilmente è uno dei più grossi studiosi di Unione Sovietica su scala mondiale, lui due o tre volte lo sottolinea, io l'ho sottolineato anche, dice: qua non c'è ancora uno studio sul ruolo delle donne in Russia, in Unione Sovietica, perché senza studiare la storia e il ruolo delle donne in Unione Sovietica non si può capire l'Unione Sovietica. Le donne in Unione Sovietica prendono dopo la guerra, attenzione, l'Unione Sovietica è questa storia qui, prima guerra mondiale, guerra civile, che non tutti ne conoscono molto bene i dettagli, ma stiamo parlando 10, 12, 13 milioni di morti, le repressioni degli anni 30, i gulag, la seconda guerra mondiale con morti tra i 20 e i 27 milioni di persone, e vi lascio immaginare chi è tornato dal fronte, in che condizioni psicofisiche è tornato. Allora, in questa condizione, in questo stato, le donne sovietiche hanno preso il paese sulle proprie spalle e l'hanno tirato fuori. Cioè tutto il grande successo dell'Unione Sovietica del secondo guerra possiamo dire che è rimandabile direttamente alle donne. Voi, quando dagli anni 90 sono iniziate ad arrivare le donne a fare le badanti, no? Soprattutto l'Ucraina e il Moldavia, la Russia molto meno, ma sono provenienti dall'Unione Sovietica, ci si accorge che una è l'architetto, una è ingegnere, una... Si è arrivati al punto in Unione Sovietica negli anni 80 che il 96,9% della forza lavoro delle donne lavorava. Con questo è tutto, e attenzione, adesso vi ho raccontato questo lato della storia, ma esiste l'altro lato della storia, che qua non c'è nel libro perché bisognerà raccontarla questa storia. Se è successo questo, abbiamo avuto delle intere leve, delle intere generazioni di maschi, non solo in numericamente molto bassi, perché nel periodo di Khrushchev c'erano 800, negli primi anni 50 c'erano 833 uomini per 1000 donne, ma con delle capacità e una forza caratteriale estremamente bassa. Il fenomeno dell'alcolismo, generalizzato anche tra le donne, io non voglio assolutamente negare, ha sempre colpito maggiormente gli uomini. Se questa è la situazione, come rovescio della medaglia, abbiamo una donna russa e sovietica precedentemente estremamente tradizionalista, che che sogna l'uomo tradizionale, sogna il padrone di casa, sogna l'uomo che sa svolgere il suo ruolo di uomo. Allora, quando oggi, non è una provocazione, è un dato di fatto, quando oggi se vai nella società russa e anche tra le donne, se gli dici il gay pride, anche le donne dicono quale gay pride? Io non voglio il gay pride. Me ne si guardi bene, è come dire, è una tragedia se qua si sviluppa, come dire, perché la loro idea è che se c'è, come dire, se si apre un canale per il quale, come dire, viene l'omosessualità viene, come dire, scusa il termine, liberalizzata, dice, usiamo queste idee, avremo ancora meno maschi, perché una parte andrà, è un'idea stramba, è un'idea per certi versi ovviamente reazionaria, però è, questa è la Russia. Allora torno all'inizio della relazione, o vogliamo raccontarci la storia che vogliamo della Russia o la studiamo veramente per quello che è, con le sue grandezze e con i suoi limiti. Sì, prima è stato citato un argomento che secondo me è molto importante, riguardo i processi di urbanizzazione. La differenza, a parte, vabbè, chiaramente dopo la Seconda Guerra Mondiale, che si può immaginare l'esigenza anche di manodopera diversa, di fabbriche nuove, eccetera. Come è cambiata e, insomma, il capitale, diciamo, immobiliare oggi in Russia, come lo si può definire? Al periodo sovietico d'oggi? Sì. Scusa, come è anche nato il capitalismo immobiliare? Anche qua, prima che mi dimentico, rispondo subito. L'Unione Sovietica alla fine della Seconda Guerra Mondiale, un paese per la parte europea completamente distrutto, è la condizione che dicevo prima, soprattutto, era già un fenomeno ovviamente che esisteva anche nel periodo staliniano, ma si pone ancora più in questione drammatica la coabitazione. Cosa si immagina, come dire, l'elite crusoviana? Si immagina di dare delle case costruite sostanzialmente a pannelli sullo stile Courvoisier, no? Che vengono chiamate le Khrushchevke, da Khrushchev. Nel giro di poco più di 10 anni vennero costruite più di 10 milioni di appartamenti nelle grandi, medie e piccole città, appunto case prefabbricate, a pannelli, monolocali o bilocali, col bagno e una piccola cucina, che nell'idea, come dire, delle stesse elite khrushcheviane dovevano essere, come dire, momentanee, poi avremmo dato delle case migliori, eccetera eccetera. Poi purtroppo tutto ciò non avvenne mai, malgrado i processi, come dire, di sviluppo immobiliare continuarono nel periodo brezneviano, cambiarono anche il tipo di edifici, no? Si furono immaginati anche edifici anche a trilocali, in alcuni casi agli ultimi piani quadrilocali. Però sostanzialmente le Khrushchevke esistono ancora ad oggi in Russia, e molti milioni di russi continuano a viverci. Quello fu un momento chiaramente per i russi straordinario, perché appunto, come sempre, noi non possiamo fare dei paragoni fuori dalla storia, come del resto fu in Italia tutto il fenomeno dello sviluppo dell'edilizia popolare negli anni 50 e 60, no? Il tentativo era di dare a tutti una casa. I processi di privatizzazione che si sono iniziati a avviare a partire dal 1991 naturalmente hanno coinvolto tutto il patrimonio immobiliare, perché in Unione Sovietica, a parte una piccola percentuale di case cooperative in cui di fatto la gente era proprietaria, in realtà gli appartamenti erano assegnati, ti venivano assegnati, tu vivi lì, eventualmente avresti potuto lasciare, come dire, in eredità, chiamiamola così, ma l'appartamento rimaneva completamente dello Stato. Cosa abbiamo visto nell'ultimo trentennio? Beh, sicuramente dei fenomeni da una parte, da un certo punto di vista, speculativi, giganteschi, costruito su parte del patrimonio immobiliare che esisteva, soprattutto di tutte quelle strutture abitative di epoca staliniana che vengono considerate di maggiore qualità, no? I muri spessi, i soffitti alti, eccetera, ma anche naturalmente con la costruzione di nuovi quartieri di cui accennavo. Però abbiamo, ecco, e questo rimanda ai rimasugli, no? Quando diciamo i lasciti del periodo sovietico, una cosa molto particolare. Con la privatizzazione del 1993, qualsiasi cittadino russo che viveva in queste case assegnate dallo Stato può andare nell'ufficio comunale della sua zona, dove ci sono il catasto, e far riconoscere che quello è un proprio appartamento privato, e senza spendere neanche una tassa di un rublo, quell'appartamento diventa tuo. Ok? Sono passati quasi 30 anni. E se si va a vedere i dati, io quando la prima volta sono rimasto sbalordito, ma poi ho capito immediatamente, circa il 50% non l'ha mai privatizzato. Se noi lo immaginiamo in Italia, dici, come non hai privatizzato? La fai diventare tua, la puoi vendere, la comprare. Ma la stragrande maggioranza, una buona percentuale dei russi non pensa assolutamente di cambiare casa, molte volte ha avuto una casa assegnata in centro, anche famiglie modestissime. Ma continuano a vivere lì in centro. Allora dice, io se la vendo dove finisco? Finisco chissà dove. Cioè, chi ha privatizzato? Chi, come dire, era quella parte della società, chiamiamola così, dinamica, che poi va e poi cambia città, che poi vuole cambiare zona, che poi ha speranze, che vuole andare all'estero, può fare qualsiasi cosa. Ma chi non ha prospettive particolari non pensa assolutamente di privatizzare. Per un motivo molto semplice. Che se tu non privatizzi, non paghi le spese di manutenzione, non paghi le spese condominiali, quelle interne, che rimangono tutte a carico dello Stato. Questo è un tipo di psicologia da noi sconosciuto, no? Tanto è addirittura che tutta la parte, cioè quando chi privatizza diventa proprietario della casa, ma non è proprietario delle parti comuni dell'edificio, che comunque deve pagare. Cioè, la facciata, tanto per intendere, è dello Stato. Tanto per intenderci, perché hai questa situazione estremamente particolare, estremamente significativa. E questo dà l'esempio ancora una volta che quando, appunto, al di là delle, come dire, delle grandi categorie, quando andiamo in una società in profondo a guardarla, ci troviamo di fronte, soprattutto quella russa, a delle situazioni estremamente interessanti, come dire. Forza, forza, non abbiate timidezze. Secondo te. Vieni qua. Microfono. No, no, perché qua c'è registrato, qua è tutta una storia. Voglio vedere tutto registrato. C'entra parzialmente con quello che hai detto. Secondo te potrebbe essere la, diciamo così, disgregazione di un sistema economico come quello russo-sovietico un modello del prossimo futuro che ci riguarda? No, perché no. Cerchiamo di spiegare meglio. No, noi abbiamo assistito a un chiamiamola catastrofe per semplificare, ma la parola è molto complicata, a una disgregazione di economie, legami personali, istituzioni, che condivisa, mettiamola giù così, da milioni di persone, giusto? Non è che quello è perché quelli erano comunisti, coglioni, teste di cazzo, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un sistema economico che va in crisi. Perché non pensare che questa forma della crisi che ha avuto il sistema economico russo, non vuol dire niente il sistema economico russo, ma insomma, in qualche modo, non possa essere il futuro del sistema economico capitalista nelle società europee. Una domanda del cazzo, mi rendo conto. No, ma... no, è una domanda da 1 miliardo di dollari, perché chiaramente l'esperienza degli altri restano operai. Però voglio dire una cosa, che io, come dire, tratto, e adesso, fino adesso non abbiamo parlato del periodo gorbaciuviano, ma che comunque è un'epoca interessantissima, anche perché diciamo che è la parte del mio libro in cui utilizzo più fonti russe, perché tutto quello che riguarda il crollo dell'URSS, purtroppo in Occidente si è rimasti al 25 dicembre 1991. Ah, è crollato, vabbè, arrivederci, grazie. Cioè, no, finalmente, o con la lacrimuccia, ma insomma tutti hanno chiuso la porta, hanno detto è andata come è andata. Poi si sentono le teorie più strane, perché è crollata l'URSS, però nessuno ha più letto niente, nessuno ha più studiato. Là, volenti o nolenti, hanno dovuto continuarsela a sbobbare la loro storia, no? Dal punto di vista della memorialistica, dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista dell'analisi, perché non è che ci puoi sfuggire da una cosa del genere. Io penso che, come dire, chiamiamola una sinistra, se si può ancora chiamare così, no? Degna di questo nome, sarebbe lì ancora a studiarsela tutta sta roba, perché voglio dire, è stato il tentativo più grande della storia umana di proporre una società diversa, e poi adesso mi chiudi la porta e te ne vai, dice l'ultimo spenga la luce, no? Allora io in questo libro sostengo, no, dopo essere stato un grande sostenitore della teoria del capitalismo di Stato eccetera eccetera, che io non so come possa essere definita, insomma lì poi inserisco degli elementi, ma posso dire una cosa secondo me abbastanza, in modo abbastanza convinto, che lì non c'era il capitalismo. E c'è un elemento che secondo me che rimanda a quello che tu dici, ma perché qua potrebbe essere il... Secondo me qua la situazione è molto più complessa, nel senso che rimanda anche alla questione storica che si erano posti già i bolscevichi, no? Cioè sarà molto più facile... fare la rivoluzione, sarà molto più facile fare la rivoluzione russa quando poi dopo riuscire a costruire una società. E la stessa cosa si pone perché il crollo di questi sistemi, cioè non abbiamo avuto una situazione in Occidente, chiamiamola con una categoria insomma un po' oggi come oggi complessa, così, ma i capitalisti, la borghesia non credo che lascerebbe il potere così. Cioè, in molti di questi paesi sono state chiamate rivoluzioni di velluto, sono state fatte, cioè, poi con le loro differenze, ma anche riguardo alla Russia, cioè, tutto il fenomeno che ha condotto poi al crollo dell'Unione Sovietica. E nessuno se ne sarebbe andato così. Cioè, c'erano corposi interessi da difendere. E invece qua ci troviamo di fronte, chiamiamola così, a una nomenclatura che a un certo punto aspira a diventare quella roba lì, aspira a diventare, come dire, borghese, aspira a diventare, come dire, in parte durante il processo storico lo è già, come dire, diventata a modo suo. Ma per tutta la fase... Io ritengo ancora oggi non si può parlare neanche adesso di una vera e propria borghesia russa. Cioè, gli oligarchi non sono una borghesia tradizionalmente intesa, non è, come dire, se abbiamo l'idea schumpeteriana, no? In cui c'è innovazione, c'è rischio, c'è cose, questo è il plus del capitalista, no? Il capitalista produce qualcosa in più, no? Non è semplicemente colui che arriva lì. Questi sono dei veri parassiti. E la nomenclatura sovietica, per molti versi, era una nomenclatura parassitaria. Poi io qua discuto e dico anche i limiti di tutta l'ipotesi, perché questo chiaramente uno subito immagina l'ipotesi trotskiana, ma io discuto anche dei limiti dell'ipotesi trotskiana. Però voglio dire, alcune caratteristiche permangono per tutta la storia e fanno sì che, secondo me, fanno pensare che qualsiasi sarà, come dire, le ipotesi, come dire, anche di disfacimento della società capitalista, saranno dei processi abbastanza diversi da quelli che abbiamo visto lì. Scusa, era il libro tuo? qua ne parlo in termini di conclusione, perché io non tratto poi il periodo russo-putiniano. Sì, sono, mi sembra, 8 anni di riduzione dell'aspettativa di vita media negli anni 90. Mi riaggancio alla questione del capitalismo, capitalismo di Stato, in modo un po' anche provocatorio se vogliamo, ma secondo te, dato che anche nel periodo sovietico la forma merce manteneva una, diciamo così, operatività e conseguentemente anche la legge del valore a modo suo manteneva un'operatività, e che a maggior ragione oggi, se facciamo astrazione dall'economia naturale di cui hai parlato prima, che però per quanto possa estendersi o essere estesa, correggimi se sbaglio, naturalmente non è quella centrale, non è quella che dà sostanza, no, alla produzione di ricchezze in Russia. E, dato che ci sono questi elementi, allora non è possibile concludere che quella è sicuramente, adesso discutiamone se prima, una società capitalistica, e che quindi in realtà le cosiddette rivoluzioni di velluto che tu citavi prima sono state rivoluzioni sostanzialmente politiche, perché non si è operato una modifica sostanziale dei rapporti di produzione nella società civile, insomma, e questo, per questa ragione quindi c'è una differenza tra quello che è stato lì e quello che potrebbe essere qui, qualora invece emergessero lotte rivoluzionarie per una società differente, socialista o come la vogliamo chiamare. Chiaramente queste sono questioni molto interessanti, no? Che io ho passato tanti anni, la natura sociale dell'URSS, che cos'era, capitalismo Stato, collettivismo burocratico, Stato operaio degenerato, no, era socialismo, dibattito interessantissimo che però, come dire, col 1991 è diventato di minore interesse. Perché? Perché non abbiamo più l'oggetto del contendere. E dato che quella comunque era una, io ritengo, e perché allora ha perso valore? Perché quello era comunque un dibattito politico. Cioè, c'era un grande sforzo naturalmente teorico per capire, per analizzare, eccetera, eccetera, ma era un dibattito. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento di tutto questo lavorio teorico, che appunto era poi battaglia politica tra diverse tendenze marxiste o al massimo anarchiche, eccetera, eccetera, o socialdemocratiche, comunque tutto all'interno di un certo, di un certo orizzonte, era basato molto poco sullo studio di quello che era quella società, ma non per loro cattiva, perché comunque era una società chiusa in cui le informazioni erano scarse e molto spesso si doveva lavorare sulle statistiche che ti forniva il governo, oppure su delle ipotesi, soprattutto nella letteratura francese, in parte anglosassone, su ipotesi di lavoro, eccetera. Per cui tutto questo lavoro aveva questo secondo problema, seconda difficoltà. Terzo problema e terzo aspetto è che ci si basava, come dire, Marx ha dato una struttura di come è la società capitalistica, profitto, capitale, eccetera, eccetera. Ah, guardate, là c'è questo, questo e questo, e lì c'è il capitalismo, no? Oppure sì, c'è questo, ma non c'è questo, eccetera. Io penso che il mio tentativo, no? Parziale ovviamente, è la prima cosa, pur io richiamandomi, come dire, al metodo materialista storico, di mettere prima i fatti e dopo mettere, come dire, cioè non posso secondo me è molto complicato partire da Marx e poi cercare, perché sennò rischi veramente di cercare di far incastrare una rondella quadrata in una rondella tonda, perché operi delle forzature. E ti faccio alcuni esempi su queste forzature. Quando si dice esisteva un mercato, beh, partiamo dal mercato per eccellenza per il marxismo. Qual è il mercato per eccellenza? È il lavoro vivo, no? è la parte variabile del capitale, è la forza lavoro. Beh, dire che c'era puramente un mercato del lavoro in Unione Sovietica è complicato. Abbiamo un periodo tra le due guerre in cui 20 milioni di persone passano per i gulag, per il lavoro schiavistico. Che mercato del lavoro ci troviamo di fronte a ciò? Estremamente complicato. Estremamente complicato immaginare, come dire, tutto una, il resto della forza lavoro che è formalmente libera e sotto una pressione indicibile da questo punto di vista. Per tutto un lungo periodo in Unione Sovietica la forza lavoro non si poteva muovere, non poteva andare a cercarsi il lavoro dove voleva. Questo è tutto meno che una forza lavoro capitalistica. Il tipico elemento della società capitalistica è che la forza lavoro va e cerca il posto di lavoro dove gli danno il prezzo più alto. Attenzione, non è proprio tutto così. Dagli anni 50 e 60, con le riforme crusciviane, se ne accorgono che una rigidità della forza lavoro così produce delle complicazioni estremamente grandi dal punto di vista proprio anche poi della produttività, della qualità del lavoro, eccetera. E per cui si iniziano. Ma attenzione, diventerà sempre più libera, ci sono dei meccanismi. Io nel libro spiego concretamente come funzionavano i meccanismi della dinamica della forza lavoro, però fino al 1977, fino all'ultima Costituzione sovietica, che viene inserito in Costituzione, non c'è libertà. Piena libertà, c'è il sistema della propisca, cioè c'è il sistema in cui tu comunque per muoverti hai bisogno di tutta una serie di autori, puoi farlo, ma non è così, non è così facile. Per cui ho fatto l'esempio della forza lavoro, potremmo parlare di altro, però è chiaro che quando tu ti trovi di fronte a un affare del genere, appiccicare un'etichetta, dire questo è questo, questo è quell'altro, è complicato, no? Poi dopodiché puoi dire, ma c'era lo sfruttamento? E come che non c'era? Certamente c'era. C'erano degli elementi, anche elementi di capitalismo, sicuramente. Io penso, lo dico anche nel libro, io aderisco un po' alla tesi di uno studioso e militante, prima sovietico e poi russo, che è Boris Kagarlitsky, per il quale ci siamo di fronte trovati a una poltiglia in Unione Sovietica dal punto di vista dei modi di chiamiamoli così, se vogliamo stare in questo dibattito di modi di produzione, e stiamo sul dibattito di modi di produzione, in cui si mischiavano economia naturale, che comunque ricordiamo qua, elementi di carattere feudale, elementi di carattere schiavistico, elementi di carattere capitalistico e anche elementi di carattere socialistico. Perché questo è anche... In Russia ancora oggi, questo è un altro lascito, ci sono ancora i subotnik, in modo molto più, come dire, informale, ma la gente va al sabato e la domenica a sistemare la propria scuola, si sistemano a fare le pulizie, eccetera, eccetera, eccetera. Lavoro completamente gratuito, per chi? Per la società. Ma questo puoi dire, ma nel periodo sovietico, ma è stato talmente interiorizzato che adesso non c'è nessuno che te lo impone di fare, ma la gente lo continua a fare. Con questo io non ho nessun tipo di mitologia, cerco solo di, come dire, di fornire degli strumenti perché poi ognuno si possa costruire la propria interpretazione. Però ripeto ancora, attenzione agli schemi, perché io sono stato un grande lettore attentissimo di Amadeo Bordiga, che considero un grande teorico marxista, eccetera, eccetera, eccetera. Ma guardiamo i suoi scritti dell'Unione Sovietica, sono del 1953, 1954, 1955, 1950, fino al 57 forse alla fine degli anni 50. Ma tu non puoi pensare di analizzare poi tutto con una parte di lavoro soprattutto costruito su fondi francesi, perché sennò diventa difficile. E basta però, eh. Ma lui è uno che vuole partecipare in modo attivo. È bene che i giovani partecipino. No, non l'ho visto. È una recensione. No, volevo precisare che prima io non intendevo che in seguito alla crisi, come dire, descrivendo bene la crisi successa nel sistema economico sovietico, potesse succedere la stessa cosa nell'Occidente, ma in termini rivoluzionari, ma in termini di catastrofe sociale. Per questo mi rifacevo al discorso sulla perdita della aspettativa di vita. Ci sono delle catastrofi che dobbiamo aspettarci. Non so, io le chiamo catastrofi, potremmo chiamarle in altro modo. E proprio perché un sistema così composito come quello che tu stai descrivendo con cura può ben corrispondere a alcuni aspetti di quella crisi alle crisi che noi possiamo aspettare in questo mondo che da cui ci promettono di uscire facilmente, capito quello che... Ma non intendevo un processo che si innescasse un processo rivoluzionario. Dico, io ho due robe ancora. Attraverso questo libro, secondo me, emerge una domanda che cerco di formulare così. La società di capitale pianta di tutti i climi, punto di domanda, oppure no? E questa è un po' la questione, perché l'esistenza di tratti ed elementi fondamentali della logica capitalista ci sono evidentemente e sono nella parte critica l'apporto positivo che i compagni che si sono sforzati di analizzare la questione russo-sovietica hanno dato, perché bisogna ricordare che, come ho accennato prima, erano anni, decenni di propaganda e di svilimento del pensiero critico, fenomeni che hanno avuto un peso catastrofico sulla possibilità stessa di continuare a parlare di socialismo, di prospettiva rivoluzionaria. Quindi, però appunto la questione è appunto che poi è questione che si trova anche in altre aree del globo oggi, è una domanda sulla possibilità o meno che la società di capitale ha di realizzarsi e compiersi a livello mondiale. Molti compagni, molti ricercatori ormai ritengono che questo non sia dato, e anche quel filone di studi che hai richiamato, quello di Immanuel Wallerstein, cerca di mettere in prospettiva storica proprio questi che una volta erano detti dislivelli dello sviluppo capitalista, quindi disegnando delle aree, quelle delle economie mondo, in cui gli effetti avvengono a livello di mercato mondiale, ma dentro queste aree le funzioni produttive, quindi i rapporti sociali, possono essere estremamente differenziati. Quindi la dimensione di Stato ed economia semiperiferica o semicoloniale, cosa che appunto lo stesso Marx provò a studiare negli ultimi anni della sua vita, che anche questo apporto dal punto di vista metodologico è estremamente importante, perché fu il tentativo di mettere prima i fatti, poi l'esperienza degli uomini che vivevano questi fatti, perché non bastano i fatti, si tratta anche di mettere a valore come gli uomini vivono quei fatti, quindi le correnti del pensiero, dell'esperienza rivoluzionaria di quelle zone, di quelle aree, senza pensare che dal polo di sviluppo capitalista più avanzato, dall'Europa sostanzialmente, dovesse arrivare la buona novella, la spiegazione di come fare, di come non fare, eccetera. Questa cosa. E quindi chiaramente si tratta di un saggio, di un tentativo di interpretazione, ma che sta dentro un dibattito secondo me più ampio, perché appunto riguarda la possibilità di affermazione. A livello globale il capitale di sicuro riesce a produrre un disastro di dimensioni mondiali, ma l'instaurazione di una società che possa essere detta capitalista secondo l'assiomatica del capitale è tutto da dimostrare. Sembra invece che di fatto non sia così. Sul piano della rendicontazione dei tentativi di analisi di parte, perché poi c'è l'elemento oggettivo ma c'è anche l'elemento giusto punto politico di parte, una cosa che mi è piaciuta di questo lavoro è che sono stati messi in evidenza gli apporti anarchici all'analisi della questione russo-sovietica, quindi autori, contributi che non capita spesso di vedere utilizzati e citati fuori della stampa anarchica. Negli studi sulla questione russa, sia nella descrizione storica dei fatti rivoluzionari del 17, c'è molto spesso questo grande assente. E tu invece valorizzi i contributi sia per il passato, ma anche nella lettura contemporanea della storiografia, mettendo in evidenza la profondità del movimento sociale rivoluzionario che ha la sua seconda tappa nel 17, ma che non si conclude, mettendo quindi in evidenza gli scarti che stanno tra il livello politico, la presa del potere, e la possenza del movimento sociale rivoluzionario. Ecco, questa è un'altra cosa che secondo me è importante e va richiamata. Allora, io volevo fare una riflessione riguardo la situazione del regime in Russia, ovvero che io, dal mio punto di vista, come l'ho studiata, è un'autocrazia a partito unico egemone, essendo che il partito centrale, ovvero Russia Unita, è continuamente da elezioni di molti anni in vantaggio stratosferico rispetto agli altri partiti. Volevo capire se questo avesse una connessione con la crescita economica continua nel tempo che questo paese sta, diciamo, passando, e da che cosa era derivato questo continuo consenso che riesce a ottenere il partito centrale. Se sono stato chiaro. In qualche modo con questa domanda passiamo sull'oggi. La seconda parte poi chiaramente possiamo riprendere anche elementi della prima parte, che tra l'altro è stata un po' ridotta rispetto forse a quando avrebbe potuto, eventualmente anche quelle le riprendiamo dopo. Comunque rispondi a lui. Sì. Allora, discutere del sistema politico russo è estremamente complicato, perché dobbiamo anche qua toglierci tutti gli schemi di dosso, molti schemi di dosso. Primo dobbiamo partire da un fatto oggettivo. La grande crescita economica, quella diciamo a livello del PIL del 7-8% della Russia, è fortemente limitata dal 2000 al 2010. Dal 2011-2012 si iniziano a sentire gli scricchioli e successivamente possiamo parlare di sostanziale stagnazione, con anche delle cadute importanti. Beh, c'è stata già la caduta del 2008, però diciamo quella era legata al mercato mondiale. La Russia è fortemente legata e condizionata al mercato mondiale proprio perché è grande esportatrice di materie prime, ma se questo poteva essere un aspetto, come dire, tecnico, dopo successivamente non è così. Basta guardare oggi il petrolio è 85 euro dollari al barile, cioè un prezzo ormai sufficientemente alto, ma l'economia russa non sta ripartendo, o sta ripartendo dal punto di vista, come dire, anche qua è un rimbalzo rispetto agli anni della pandemia. Però diciamo, basta guardare uno degli elementi fondanti che erano sempre stati collegati, cioè il prezzo del petrolio e il cambio del rublo con il dollaro e con l'euro, nei periodi migliori il cambio euro-rublo era 1 a 30, no? 30 rubli per un... Adesso siamo arrivati a dei limiti, arrivare quasi a 93-94, e poi adesso con il prezzo del petrolio che sta salendo tantissimo, comunque siamo 82-83. Cioè non si recupera, e questo vuol dire non recuperare da parte della popolazione potere d'acquisto, perché per l'esempio che ho fatto prima, cioè la Russia è un paese che importa prodotti finiti. Nel settore per esempio della farmaceutica siamo a livelli percentuali oltre l'80%. A livello di tecnologia di base, televisori, computer, eccetera, eccetera, anche lì siamo ad altissimi livelli. È vero che adesso hanno iniziato a importare computer tantissime cose cinesi, perché comunque i prezzi sono un po' più bassi di quelli americani o sudcoreani, però la situazione è questa. Per cui quando... Questo è il primo elemento da tenere presente, perché sennò rischiamo sempre di parlare di un paese che non esiste più, cioè parliamo sempre del boom dei primi 10 anni, in cui sicuramente Putin riuscì bene a cavalcare l'onda e a costruire sicuramente un ampio consenso diversificato. A partire dal 2010 in poi questo consenso si è ridotto. In tutte le elezioni, questo non lo devo dire io, ma insomma è un dato di fatto, no? Ci sono delle grandissime frodi, no? In cui una parte del voto che va a Russia Unita è una frode. Questo vuol dire che Putin non vincerebbe le elezioni se le elezioni fossero libere, ma forse ancora oggi riuscirebbe a vincere. Ma Putin si basa su un elemento di potere fondamentale, che è un potere di carattere plebiscitario. Non si può pensare e permettere di immaginarsi, proprio anche la struttura del potere, come la chiama lui stesso, verticale, no? Non dà questa possibilità, non dà neanche la possibilità che ci sia, come dire, un'aura della possibilità di un'alternanza politica. C'è lui e basta, lui è il partito di potere. Attenzione, ma anche qui non dobbiamo avere schemi occidentali, Putin non è neppure la tessera di Russia Unita, cioè lui ha creato Russia Unita e poi se n'è andato da Russia Unita. Cioè lui da questo punto di vista ha un approccio, se vogliamo utilizzare ancora, come dire, la metodologia del materialismo storico marxista, è un bonapartista, è al di sopra del sistema politico. Questo è un elemento importantissimo. Per cui, e molto spesso le stesse frodi, non è che uno dice ma è Putin che gli dice fate frodi di qua e di là. No, assolutamente. Il processo, proprio perché... Io penso che ci abbia dei tratti neofeudali, no? La società russa. Sono i poteri locali che costruiscono la frode, perché devono far vedere a Putin che esiste un enorme consenso nella mia zona, nella tua, perché questo è un modo per poter ascendere poi al potere a Mosca. Se sei un governatore, se sei un potente locale. Per cui anche qua i meccanismi sono... Dobbiamo un po' liberarci, come dire, dagli schemi, perché quando poi leggiamo gli articoli sulla stampa occidentale prendiamo delle cantonate, non riusciamo veramente a capire quello che succede. Tant'è che nelle ultime elezioni che si sono tenute a ottobre, per chi ha un po' avuto la bontà e la pazienza di seguirle, in realtà c'è stato un grande avanzamento del Partito Comunista della Federazione Russa. Allora uno dice ma come, allora alcuni giornali nel giro per il mondo scritto stanno tornando i comunisti eccetera eccetera, ma attenzione, anche qua va visto con chiarezza, ci sono molti aspetti che andrebbero colti e capiti per capire, come dire, questa ascesa elettorale di un partito che, come dire, ha fatto sempre un'opposizione estremamente morbida, un'opposizione a sua maestà di Putin. Ma un elemento fondamentale che si è visto, è stato evidente nelle grandi città, Mosca in primis, è che si è andato a concentrare tutto il voto dell'opposizione, ma io posso parlare dei singoli di persone che conosco, cioè a un certo punto il famoso voto intelligente che Navalny aveva proposto per altre cose, a un certo punto c'è stata l'indicazione secca, tutti si vota comunista, cioè esiste una pubblica, esiste un'opinione pubblica russa, soprattutto giovanile, chiamiamola liberal, soprattutto a Mosca e a San Pietroburgo, ma che fino a 3 mesi fa non si sarebbe mai sognata di notte di votare il Partito Comunista Federazione Russa. Ma è in una situazione in cui la repressione si allarga e non tocca solo Navalny, ma tocca anche la dispersa sinistra che esiste in Russia, quali sono gli strumenti per poter agire? Perché anche lì nessuno in Russia, a parte come dire gli anarchici che tradizionalmente non votano in nessun caso, ha pensato che il boicottaggio sia, come dire, il canale su cui far confluire, come dire, una possibile, anche quando nella partita elettorale svolga un ruolo. E quando parliamo anche di questa, come dire, questa chiamiamo vasta area liberal giovanile, non dobbiamo anche lì prendere fischi per fiaschi, cioè non stiamo parlando, sì, stiamo parlando anche a volte del piccolo imprenditore eccetera, ma stiamo parlando soprattutto di quella vasta area di lavoro che il mio amico Tony chiamerebbe il lavoro cognitivo, no? Ma che sono il lavoro cognitivo da 300-400 euro al mese, cioè attaccato al computer per 300-400 euro al mese, e che sente fortissimamente che non c'è mobilità sociale, e anche lì torniamo, cioè non esiste mobilità sociale in Russia se non attraverso come dire l'entrare nelle grandi aziende statali, Gazprom, Rosneft eccetera eccetera eccetera, Rosatom. Da lì esiste un qualche grado di mobilità sociale, ma tutto il resto non esiste. Non esiste in Russia uno sviluppo, esistito ma solo appena accennato, della piccola e media impresa. Non esiste fattualmente classe media. La classe media è una pura illusione in Russia. Allora, questo rimanda un po' anche alla questione che lui poneva, no? Società capitalista. Sono tutte società del capitale, ma in Russia, io, come dire, io vivo in Russia, ma io non ho visto l'affermarsi del capitalismo in Russia. Dov'è l'affermarsi del capitalismo in Russia? E non ho visto l'affermarsi del capitalismo praticamente in tutte le repubbliche ex sovietiche, dove non ci sono solo dati oggettivi, il prodotto interno lordo non è ancora tornato al livello degli ultimi anni dell'Unione Sovietica, il crollo demografico continua, ci sono le repubbliche centroasiatiche in cui il 70% della forza lavoro ha abbandonato il paese, è venuto a lavorare a Mosca piuttosto che a Rostov sul Don eccetera eccetera, cioè repubbliche morte. Vogliamo parlare dell'Ucraina che vive con il debito del Fondo Monetario Internazionale e per star lì per punzecchiare la Russia e dargli fastidio, perché questa è l'Ucraina, cioè, si parli dell'economia ucraina, perché io sono tutto orecchia, voglio ascoltare qualcuno, e attenzione, i grandi soloni del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale avevano detto che lì, se si dava la stura allo sviluppo dell'economia di mercato, sarebbero stati dei successi straordinari, l'Ucraina, le terre nere, una base industriale straordinaria, sono passati 30 anni, questi paesi, solo la Russia galleggia, ma perché? Lo sappiamo, perché petrolio e gas, togliamoglielo e vediamo cosa succede. Cioè, per cui, introducendo appunto la questione della Russia putiniana, dobbiamo liberarci di schemi, dobbiamo liberarci anche soltanto di quello che scrive la stampa occidentale, e provare ad andare in profondità e capire. Forse un po' naif, ma visto anche tutto quello che avete detto, la disgregazione e il grandissimo disagio, soprattutto nelle in molte vaste parti periferiche della Russia. Questa economia stagnante ormai da molti anni, ma il dissenso, se così si può chiamare, emerge poco perché c'è una repressione di fatto pressoché invincibile, o si sta esprimendo, e qui mi riferisco forse soprattutto alla popolazione giovanile, si sta cominciando ad esprimere sotto forme che magari non abbiamo ancora ben capito, almeno noi che non conosciamo la realtà, tu forse di più. Rispondendo a questo, inserisco anche un po' l'elemento del secondo libro, perché dobbiamo anche parlare un po' del secondo libro, perché sennò dopo gli editori del secondo libro mi danno mi bacchettano. Anche qui dobbiamo uscire dagli schemi. Per certi versi ci troviamo di fronte a un'opposizione russa molto diversificata. Abbiamo quella delle grandi città europee e abbiamo quella delle realtà asiatiche e siberiane. Sono tre opposizioni molto diverse tra di loro, no? Ovviamente, che potrebbero rimandare a un'ipotesi che io butto lì e lascio lì, ma che non ho mai studiato, mi passa così per la testa. Il futuro della Russia potrebbe essere una balcanizzazione? C'è una possibilità che la Russia si balcanizzi? Questo secondo me non è completamente da escludere, ci sono molti elementi che potrebbero essere, però restando alle opposizioni, l'opposizione giovanile, quella che in occidentali ci parlano Navalny, liberale, legato, ma questo lo sappiamo benissimo, come dire, Navalny è stato molto abile, molto intelligente a non far, come dire, comparire i finanziamenti e gli aiuti che riceve dai paesi occidentali, ma la cosa è assolutamente evidente. Se al punto che è diventato uno dei possibili candidati al premio Nobel, questo ci dà l'idea, no? di come dire, per certi versi in Occidente e nelle cancellerie occidentali si guarda a Navalny, non secondo me tanto come possibile successore, ma come pungolo, no? Come pungolo nei confronti di Putin. Nelle manifestazioni, soprattutto nelle grandi manifestazioni che ci sono state a gennaio, due sabati, in cui sono scese in piazza a Mosca decine di migliaia di persone, ma anche in tantissime altre città, bisogna tenere presente di un aspetto, che manifestare in Russia si rischia qualche cosina. Allora, anche qui, quando si legge la stampa occidentale si dice manifestazione a Mosca 10.000 arresti. No, non ci sono 10.000 arresti, perché il sistema, come dire, punitivo, giuridico è diverso da quello che conosciamo. Possiamo dire che 10.000 potremmo chiamarli fermi, però questi fermi sono differenziati tra di loro, cioè ci sono molte migliaia di persone che vengono rilasciate nel giro di poche ore, fotografate poi rilasciate. C'è chi invece gli viene dato un arresto amministrativo che può durare da una settimana fino a 60 giorni. Il giudice il giorno dopo decide, senza un processo reale, che tu hai combinato qualche cosa e per cui resterai lì. Hai partecipato, basta dire, manifestazione non autorizzata, questo è già sufficiente. Non dico resistenza pubblica ufficiale, perché lì si parla. E sotto da questo passaggio passano centinaia e centinaia di persone sui 10.000. E chiaramente. E poi alcune decine invece subiscono poi il processo penale, l'arresto, il processo penale, la condanna, eccetera. Abbiamo un processo molto selettivo della repressione. Io non conosco i dettagli di come avviene la repressione in Italia, alcuni mi hanno detto ma guarda che non è così tanto diverso come in Russia, però in Russia ha proprio questo, invece quello lo conosco, lo vedo bene, cioè sarebbe impossibile, come dire, arrestare 10.000 persone, perché chiaramente produce delle situazioni, per cui si manda un segnale all'intera società, si manda un segnale a chi scende in piazza, attenzione attenzione, tu puoi scendere in piazza, puoi tornare a casa, potresti essere fermato, ma potresti anche avere un arresto amministrativo, potresti anche finire in prigione, perché qui sono tutti processi ovviamente che hanno un solo finale, quelli penali, eh? Cioè non è che si assiste, come dire, a delle assoluzioni per mancanza di prove. Allora, questo primo elemento, dobbiamo tenere presente che chi scende in piazza in Russia si prende dei suoi bei rischi e lo fa in tutte, non ho parlato poi adesso della Siberia, ma diciamo in Siberia ci sono più tratti sociali, a volte anche operai popolari all'interno di queste manifestazioni, e addirittura quando si va nella zona di Vladivostok ci sono tendenze autonomiste e secessioniste che sono operanti da quelle parti, e lì bisognerebbe aprire il capitolo cinese, ma io adesso non lo apro perché sennò andiamo più a nanna stasera. Però inserito questo, abbiamo una struttura, come dire, delle proteste che rimandano direttamente poi alla questione, che io non tratto delle proteste, ma dei servizi russi, perché i servizi russi sono famosissimi, no? In tutto il mondo, ma non solo per le vicende storiche che sono state legate, ma addirittura, come dire, anche nella cinematografia, nella letteratura, no? La spia che venne dal freddo, eccetera, eccetera, eccetera, i vari 007, eccetera. È un argomento molto... molto vasto e molto controverso. Io praticamente questo secondo libro si tratta sostanzialmente di una serie di articoli in cui vado a colpire tutta una serie di, a trattare tutta una serie di passaggi e di vicende legati ai servizi russi, perché poi ci sarebbe la parte interna, la parte spionistica, la parte repressiva, cioè molti aspetti. Però naturalmente, dato che noi siamo in Kaluska, non possiamo non accennare alla famosa questione che lui poneva all'introduzione. Allora, questi KGB allora utilizzava le Brigate Rosse, utilizzava l'estrema sinistra per i suoi fini all'interno della Guerra Fredda, eccetera eccetera. Io ho sempre avuto una convinzione, no? Ho sempre avuto una convinzione che quello che ha sempre sostenuto pervicacemente il principale leader delle Brigate Rosse, che è stato Mario Moretti, che non ci fu mai nessun serio collegamento con i servizi segreti e russi, fosse. Però lavorando poi, diciamo, sui materiali che ho avuto l'occasione di leggere, sono spuntate parecchie cose interessanti. Allora, come è pensabile che questo servizio segreto, questo KGB, manipolasse le Brigate Rosse, gli dicesse cosa dovevano fare, qual era, doveva essere la strategia, rapire Moro, eccetera, se, come è emerso da un documento ritrovato negli archivi dei servizi segreti bulgari, un documento spedito dal KGB ai servizi segreti bulgari, è rimasto mai inedito fino al 2010, quando sono stati pubblicati una grande massa, sono stati desecretati una grande massa di documenti dei servizi segreti bulgari, avesse un'idea tale in questo documento, che prosegue per 10, 12, 15 pagine, secondo cui gli esordi delle Brigate Rosse sono da rimandare all'attentato di Piazza Fontana, quando un gruppo di estrema sinistra guidato da Freda mette una bomba in Piazza Fontana. No, loro scrivono estrema sinistra, e questa è la cosa interessante. Questa è la cosa interessante di tutta la vicenda. E durante tutto, in questo documento in cui ci si dilunga per cercare di spiegare, di analizzare il fenomeno brigatista, si prosegue su questa strada, con errori catastrofici, che danno l'immagine di qual era, del 1980. e del 1980. E in questa catastrofe ne vengono dette, ma poi vengono anellate tutta una serie di a volte, come dire, di imprecisione, a volte di errori, a volte di queste cose veramente incredibili, che danno immediatamente l'idea che il KGB di quello che succedeva qua nell'estrema sinistra non aveva neppure una vaga idea di cosa succedesse. Ma c'è un altro elemento che io ho potuto verificare, che effettivamente esiste una memorialistica del principale agente che ci fu negli anni 70 del KGB in Italia, che è andato in pensione, ha pensato bene di dare un'intervista a una rivista dei servizi, una rivista ufficiale dei servizi segreti russi attuali, se non ricordo male del 2003 o del 2004. E allora lui racconta tutta la sua vicenda di agente segreto in Italia, a Roma, no? E a parte tutta la sua impostazione, per cui, come dire, le Brigate Rosse divennero poi manovrate dalla CIA, legate ai fascisti, perché si voleva impedire che il PC andasse a... Insomma, un'interpretazione che penso che conosciate. Inizialmente tira fuori una cosa abbastanza, come dire, paradossale, ma soprattutto paradossale perché questa rivista dei servizi segreti, una rivista ufficiale, lo pubblica, tra l'altro. Questa è la cosa, secondo me, più importante. Dice: ma noi non abbiamo niente, abbiamo avuto mai niente a che vedere. Io avevo inserito un paio di uomini dentro le Brigate Rosse, ma poi abbiamo scoperto che le Brigate Rosse erano manovrate da chi? Dai servizi segreti cinesi. Allora, naturalmente tutto questo, per chi conosce un po' la storia dell'estrema sinistra in Italia, sappiamo che ci fu un gran fiorire di organizzazioni maoiste in Italia, ma che una o alcune di esse avessero solo guardato con vaga simpatia a un'ipotesi di lotta armata, non ne trovo, soprattutto quelle più strettamente legate alla Cina, cui avevano rapporti costanti di viaggi, eccetera. Ma la domanda che ci si pone di fronte alla pubblicazione di un simile documento, ma può darsi che negli anni 70, come dire, per usare una terminologia, per andare in culo ai cinesi potessero tirar fuori una cosa del genere? Ma i rapporti nel 2003-2004, i rapporti tra Cina e Russia erano già ottimi e completamente deideologizzati e completamente al di fuori. Come mai una rivista dei servizi segreti pubblica, lo potete trovare anche adesso perché è anche su internet, andatela, cercate, trovate l'intervista, prendete Google Translate, potrà tradurre un po' bene, un po' male, ma quello trovate. Allora, assieme a questo e poi ad altri elementi che non vi voglio dire tutti perché sennò poi non mi leggete il libro, ci fornisce un'immagine, poi ci sarebbe anche tutta l'ipotesi che le Brigate Rosse erano controllate dai servizi jugoslavi, ma questa è stata un'ipotesi tenuta grandemente da degli uomini dei servizi segreti rumeni passati alla CIA, per esempio, ha tirato fuori questa ipotesi, l'ha scritta nei suoi libri, eccetera. Tutte ipotesi chiaramente fantasiose, senza nessuna serie base. Ma se le mettiamo tutte insieme, come dire, ne viene fuori un quadro che è vero che esistono migliaia e migliaia di documenti che furono, come dire, distrutti durante il periodo della transizione dai vari servizi segreti. Ma tutto ciò non può, come dire, rovesciare il quadro che ne emerge. Il quadro che ne emerge è chiaro, che non c'è mai stato, non solo non c'è mai stata nessuna relazione, ma che i servizi segreti dell'Est, poi io pubblico un altro documento dei servizi segreti bulgari, non avevano nessun rapporto con la lotta armata in Italia. E io su questo, io penso che, avendo preparando questo libro, avendo, come dire, letto un po' tutta la letteratura, come dire, su questo tema, compresi i materiali del famoso archivio Mitrokhin, potrei discutere con chiunque, penso, su questo tema, che voglia sostenere un'ipotesi contraria, perché non regge semplicemente. Niente, io non ho letto il libro, quindi vabbè, sto solo ascoltando e sono curiosa di capire un po' questa società che ci sembra così lontana, ma in effetti... Ma la mia domanda è questa, che rapporto c'è tra i movimenti sovranisti europei, insomma, tipo statuali, Ungheria, Polonia, alcuni paesi baltici, e invece la visione dello Stato russo rispetto a questi movimenti? Nello specifico mi riferisco anche comunque a rapporti comunque con partiti politici italiani, ecco. E quanto questo comunque possa passare sul corpo delle donne, piuttosto che sul corpo comunque di tutte le persone che richiedono, anche a livello di diritti civili, c'è una cortina di ferro, no? Non trapela comunque a livello informativo quelle che sono comunque le pulsioni e le volontà delle persone di esprimere la propria, diciamo, volontà, no? Non dico solo sessuale, però anche così una libertà che comunque in Occidente è abbastanza confermata. Niente, era un po' voler capire appunto il rapporto tra il sovranismo e appunto e lo Stato russo, ecco, in che modo lui si pone, se comunque, come dire, facilita questa funzione, diciamo, di questi paesi che ormai si definiscono sovranisti, oppure no. Ecco. Qua la risposta va un po' splittata in due, no? Cioè, abbiamo un aspetto. È sempre visto come una sorta, come dire, l'internazionale sovranista, eccetera. In realtà, dal punto di vista geopolitico, no? Tra il famoso blocco di Visegrad, Bulgaria, Ungheria, Polonia, paesi baltici, e la Russia, ci sono dei pessimi rapporti, no? Questi paesi sempre di più sono legati, come dire, a una prospettiva. Al cuneo americano che cerca pure in Europa, secondo me, io, come dire, non ho delle ho un'interpretazione, come dire, abbastanza complessa e diversificata, però secondo me è abbastanza univoco e abbastanza chiaro che dentro il processo di formazione di una potenza europea sull'asse franco-tedesco, il cuneo americano si inserisce con questi paesi, che costantemente, come dire, hanno un rapporti ravvicinati del terzo tipo con la Russia, rapporti pessimi, no? La Russia li vede come veri e propri avamposti di possibile aggressione nei suoi confronti, e su questo si potrebbe parlare a lungo, inserendo la variante ucraina, perché l'Ucraina è una situazione estremamente particolare, perché l'Ucraina, per le caratteristiche che ha assunto, che non mi posso dilungare qui, è molto simile a questi tipi di paesi, con anche caratteristiche particolari, perché esiste una estrema destra come dire, neofascista, con forti radici storiche, che si aggancerebbe a questa ipotesi, cioè un'ipotesi di come si sta discutendo ingresso dell'Ucraina nella NATO, ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Beh, non è in realtà così facile, quello che si può vedere, perché esiste un piccolissimo problema subito, iniziale, che è quello della Polonia. Cioè, l'Ucraina ha assimilato completamente il richiamo, come dire, richiamo storico ideale al banderismo, cioè al collaborazionismo venendo a mancare quello, ormai quello sovietico, cioè il giorno della formazione dell'esercito nazionale di bandiera è festa nazionale in Ucraina, tanto per dire, ci sono, non si va a lavorare, e questo piccolo elemento è un elemento che la Polonia non potrà mai accettare, perché la Polonia ha avuto dei massacri clamorosi da parte dei banderini. I polacchi l'hanno sempre detto. Prima o poi, quando si dovrà porre la questione dell'entrata nell'Unione Europea, la Polonia metterà giù una barricata e dirà: beh, adesso cambiate, come dire, orizzonte ideologico, se no assolutamente non se ne fa nulla. Tant'è che una delle preoccupazioni costanti del Congresso degli Stati Uniti è segnalare il problema delle formazioni di estrema destra. Sappiamo che c'è una lobby polacca molto forte negli Stati Uniti d'America. Per cui questo è un lato della faccenda. Sotto questo punto di vista nessuna relazione. Dall'altro punto di vista è vero che, come dire, Putin ha giocato, come dire, a cercare di crearsi degli spazi politici in Occidente, sostenendo apertamente la Le Pen alla corsa presidenziale, avendo relazioni, ma lì però è sempre stato molto con Salvini e la Lega, però lì è sempre stato molto accorto, non si è mai andato, poi c'è tutta la vicenda che può successo l'hotel Metropole eccetera, però non ci sono mai state particolari relazioni. Invece sono state molto relazioni interessanti con la formazione tedesca, come si chiama, ADF, vabbè. AfD, no? Su questo esistono una letteratura abbastanza interessante, ma io l'ho sempre colta, no? È vero che esistono delle similitudini sulla questione dei diritti civili, su tutta una serie di sui valori tradizionali della famiglia. La Russia ha inserito nella nuova Costituzione il richiamo alla famiglia, a Dio, eccetera. Esistono sicuramente questi punti, però io l'ho sempre visto come un approccio direttamente tattico da parte di Putin. Putin è un gran pragmatico. Per quanto riguarda la questione delle libertà e i diritti civili in Russia, questa è una questione estremamente spinosa, perché ci troviamo di fronte, come ho già detto, non solo le donne, ma complessivamente alla maggioranza della società russa che è poco incline. C'è tutto un lavoro da fare ancora, siamo come potrebbero essere negli anni 50 e 60. Io mi ricordo che una volta quando scrivevo ancora sul manifesto, feci un reportage da una discoteca per gay e lesbiche in Ucraina, a Kiev, però la situazione è molto simile di quello che succede a Mosca. E nel reportage, io non ho mai fatto, a un certo punto una compagna lesbica mi fece notare, dice: ma il reportage che mi dai te mi dà l'immagine di locali che c'erano qua negli anni 60. Cioè il tipo di relazione è quello, cioè un locale che è chiaramente identificato, che ha, per tutti gli aspetti, per esempio ha necessità di avere una polizia privata all'esterno per evitare assalti da parte dei gruppi di estrema destra, eccetera, ma i tipi di relazione che si colgono all'interno, cioè gli individui neppure si baciano, cioè la cosa è, come dire, è molto più timido il tutto, no? E lei mi diceva: guarda, questa va una roba degli anni 50, anni 60, cioè è una cosa da noi completamente dimenticata. Per cui è una cosa estremamente complessa, che mi crea dei problemi anche a me, perché a volte proprio ti devi per forza da un certo punto di vista scontrare, perché ti trovi di fronte a degli approcci estremamente pericolosi. Tenendo presente un aspetto, e questo torno solo un attimo su un aspetto storico, Mentre, come sappiamo, all'inizio della rivoluzione ci fu una grandissima apertura, no? Dal punto di vista della questione dei rapporti sessuali, eccetera, eccetera. Venne decriminalizzata l'omosessualità. Col periodo staliniano, a partire dal 1934, ci fu un processo di regressione estremamente forte, no? In cui tornò a essere reato penale l'omosessualità, in cui l'aborto fu vietato, in cui il divorzio era, come dire, al massimo... Era scoraggiato. Col periodo cruscioviano la cosa non è migliorata assolutamente e a volte addirittura peggiorò. Ci esiste tutto poi anche una triste letteratura su questo argomento. Questo per dire che tutta questa questione in Russia è estremamente complessa, estremamente difficile. Volevo farti una domanda. Siamo nei giorni della COP26 a Glasgow, anticipata da questo balletto dei G20 a Roma. La Russia, così come la Cina e l'India, si sono smarcati subito molto dichiaratamente dicendo non riusciamo a star dietro agli accordi di Parigi, già a suo tempo, ma riconfermando, perché abbiamo delle esigenze interne di equilibri economici, eccetera, eccetera, per cui noi non prendiamo ordini da questa... Anzi, vi diciamo che dall'altra parte... Stati Uniti e i loro, al di là dell'Europa, che è un po' un caso a sé, insomma, è l'unico forse l'unico continente dove ci sono dei paesi che stanno facendo effettivamente qualche step nella direzione di una riduzione dei consumi e degli sprechi, ma Stati Uniti, Australia e i loro amici inglesi sono cioè lì c'è una posizione uguale a quella di Russia, Cina e India, ma dichiaratamente invece fanno quelli che no, firmiamo gli accordi di Parigi, adesso ci stiamo anche noi, no? Dopo Trump, Biden, adesso noi sicuramente implementeremo, però come dire subito molto sbugiardati da tutta l'opinione degli ambientalisti, i giovani di Fridays for Future, vengono pubblicati, ma gli stessi Guardian, i giornali attenti a queste cose, pubblicano le bugie che costoro dicono e li sputtanano pubblicamente, cioè dicono guarda questo Morrison australiano sta vendendo palate di carbone di pessima qualità a tutto il mondo, è la loro seconda materia prima di un paese come l'Australia, voglio dire, quindi. Così gli Stati Uniti hanno dato fondo a tutte le loro scorte di carbone, le hanno vendute a tutti i paesi limitrofi, adesso in vista... quindi mi domando, ma perché la Russia non pensa invece... Non so, la Russia non sarebbe pronta. Il popolo russo, la classe... popolare colta, che si differenzia davvero tanto dall'ignoranza del popolo americano di base, non sarebbe invece pronta per guidare una svolta ambientalista vera, seria, come analizzata step by step, senza greenwashing alla Cina, no? Perché lì si fanno adesso solo dei proclami molto green, ma molto poco di sostanza. Ecco, ma secondo te, per la sua storia culturale, questa cosa della forza del pensiero del lavoro femminile, che vuol dire anche una vicinanza molto attenta alla cura, al consumo, alla quotidianità, alle materie prime, al cibo, la cultura che è sempre, fin dai tempi dell'Unione Sovietica e anche prima, insomma, è stata veramente, cioè, in confronto ad altri paesi, di altissimo profilo. Tutto questo può costruire una base di responsabilità sociale e ambientale per creare un modello in avanti diverso? Direi, parla anche dei movimenti ecologisti e ambientalisti che esistono, perché io, se aspetto la classe colta, faccio in tempo a morire 10 volte. Ecco, sì. Allora, abbiamo un quadro, metteva giustamente in risalto questo, un quadro estremamente complesso della situazione. La Russia è, fino ad oggi, è stato per molti versi e per molte zone, se eccettuiamo per esempio Mosca o altre realtà, rimane una realtà industriale, tradizionalmente industriale. E per cui, come dire, in quel quadro, in quelle realtà, molto spesso fare un discorso a carattere, come dire, in chiave, come dire, green economy, è molto complesso, perché ti trovi di fronte non solo, come dire, a dei grossi interessi materiali che sono in ballo, ma una forza lavoro che sopravvive grazie lavorando in questa realtà. Dopodiché la situazione è estremamente mobile, per esempio, se vogliamo restare su questo terreno, Mosca oggi come oggi ha tutti gli autobus sono elettrici, però non è ancora cominciata la differenziazione della spazzatura, questa sconosciuta. Accanto a questa cosa molto importante c'è l'aspetto, come dire, ecologico, come dire, dal punto estremamente materiale, e che si ricollega poi al discorso che facevo del ruolo della Cina in Siberia. Se voi vi ricordate, 2 anni fa, estati fa, ci sono stati questi enormi incendi in Siberia, boschivi, che ogni volta si dice sono giganteschi, più grandi che ci sono stati, ed effettivamente sono stati giganteschi. Il problema è chiaramente il patrimonio boschivo e ciò che produce dal punto di vista ambientale una tale massa di incendi. Ma attenzione a questo elemento, che è stato fatto, come dire, segnalato un po' da tutta la stampa internazionale, io ne ho aggiunto un altro che arrivava dai Twitter e dalle email delle popolazioni che vivono lì, che gran parte di questi boschi sono stati dati in concessione per 100 anni a imprese cinesi, e queste imprese cinesi, molte volte in accordo con i potentati locali, come dire, soffiano sul fuoco degli incendi per un semplice motivo, che vogliono togliere interi boschi che magari sono a basso valore aggiunto per poi poter mettere giù piante a prezzo alto. E questa cosa qua 2 anni fa è stata fatta in modo significativo, ma se tu cerchi sulla stampa internazionale hai trovato solo quella cosa stile, con tutto rispetto per Greenpeace, o tutto rispetto per WWF, ma solo quello, e non tutto gli enormi interessi che si muovono, diciamo, sul discorso dell'industria del legname. Questo è un elemento importante. Accanto a ciò si sono sviluppati dei movimenti ecologici, soprattutto contro le discariche, che sono stati estremamente significativi, soprattutto per esempio quello che è successo nella Repubblica Komi. Perché? Perché rimandano anche qui a una relazione politica. È vero che questi movimenti ci sono stati in varie realtà, ma questo è stato particolarmente significativo. Per dimensioni, per partecipazione, a me ha ricordato, andando lì e parlando e vedendo poi i filmati delle manifestazioni, molto il movimento No Tav, no? Mi ha ricordato molto questo, cioè una partecipazione popolare estesa, un tentativo di proteggere e difendere il proprio territorio. Da che cosa? Dal tentativo di portare, di mettere una discarica di immondizia di Mosca, perché l'idea era di dire: portiamo con i treni tutta la spazzatura di Mosca lì e ve la piantiamo lì. Dopodiché, dicevano: ma non dovete aver paura, perché comunque saranno degli impianti di livello europeo. E allora, sai, la gente dice: ma se sono di europeo, perché non te li metti a Mosca? No? Ma non per niente nei confronti dei moscoviti, no? Ma perché lo vivono come colonialismo, con un approccio completamente coloniale. Noi ti andiamo lì, ti mettiamo così, non abbiamo il problema, no? E, sostanzialmente questo approccio rimanda a un movimento molto, molto diversificato, molto, molto ricco anche da questo punto di vista, appunto sulle questioni, è un movimento che si collega subito, come dire, alla materialità, e come dire, che è ben poco middle class, perché poi allora torniamo sempre alle strutture della società russa. Middle class purtroppo in Russia ce n'è pochina, anzi quasi niente. Le aspettative, i richiami, come dire, la questione ecologica che diventa, come dire, immediatamente materiale, no? Che diventa vita e relazioni sociali. Io ti faccio ancora una domanda e una breve considerazione. Dopo avere espresso numerose lodi al tuo lavoro, c'è un punto però che non mi convince più di tanto come categoria, o perlomeno è da chiarire, si tratta di intendersi. C'è la qualificazione appunto feudale, neofeudale, nel senso che se si intende qualcosa tipo quello che allora era definito il feudalesimo industriale, i baroni predatori degli Stati Uniti dei primi del Novecento, sono d'accordo. Se si intende qualcosa che ha a che fare con l'esistenza di potentati locali di tipo gangsteristico, quindi un'economia racchettistica, sono d'accordo. Ecco, sono più perplesso sulla possibilità di usare il termine nella sua accezione storica effettiva, perché un conto è parlare di semicolonia, un conto è vedere la combinatoria nello sviluppo dell'economia mondo, dentro la quale viene recuperata una certa modalità di rapporto di dominazione sul territorio, ma anche in quel caso non si tratta di società feudale, nel senso che secondo me la società feudale ha una determinatezza storica e un'area geografica molto, molto precisa, ha un suo trapasso dopo il quale non si è. Ecco, questo è un po' un punto da approfondire, non che tu lo debba fare adesso, ma la domanda invece che è più legata alla discussione di stasera e che richiama quella doppia sollecitazione di Flavio prima, è questa: è un grande disastro sicuramente, tassi di mortalità, disoccupazione eccetera eccetera, ma quei caratteri non direttamente capitalistici e non atomistici della società russa ha forse limitato la portata di questo disastro, che mancando questi caratteri avrebbe potuto essere ancora più grande? Questa è una sul filo delle varie cose raccontate, mi sono posto questa domanda, appunto, se questi caratteri sostanzialmente di resistenza, o come si dice con un termine impossibile oggi, resilienza della società russa, hanno in qualche modo attutito quell'onda d'urto che magari in un'altra, dalle nostre parti, avrebbe avuto un esito ancora più disastroso. Ecco. Ma solo una cosa, chiaramente non voglio rispondere alla questione feudale o feudale, anche perché ovviamente se uno volesse dare proprio una caratterizzazione si dovrebbe fare un libro solo su quello, dovrebbe fare uno studio solo su quello, è chiaro, no? È un tentativo di approssimazione, è un'approssimazione per arrivare a capire che cos'è, perché il mio lavoro opera, allora, parte da una considerazione che comunque c'erano degli elementi di capitalismo assolutamente evidenti in Unione Sovietica, ma l'Unione Sovietica non era capitalista. Allora, se non era capitalista, e potremmo poi definirla, come dire, con tutti i modi, però un ibrido sociale, il processo di passaggio che comincia dagli anni 60, che 60 in poi, che la nomenclatura, come dire, inizia a riconoscersi come classe, perché ricordiamo sempre una cosa, che nel periodo staliniano anche lì definirla una classe è complicato, una classe che non ha nessuna stabilità, cioè in cui tu sei il direttore di Magnitogorsk, il numero uno, ma il giorno dopo puoi essere nel Gulag, no? Questa è una classe capitalista un po' strana. Per cui sotto questo profilo, poi c'è anche chi, io so benissimo che ha teorizzato che c'era il capitalismo senza i capitalisti, però volevo capire, diciamo, quando inizia a essere dal periodo crusciuviano e poi nel periodo brezneviano ancora di più, inizia a sentirsi veramente elite, inizia a sentire che può decidere effettivamente cosa, come, quanto produrre e quanto mettersene anche in tasca di tutta questa vicenda. Che processo si innesca? Si innesca un processo verso il capitalismo? È molto contraddittorio, perché loro vivono dell'esistenza di quel sistema. Per cui io ribadisco che tutto il dibattito che avviene nel periodo della perestroica tra conservatori e rinnovatori e gorbaccioviani, eccetera, è la contraddizione di questo strato che teme, che ha paura di andare avanti, perché questo sa benissimo che metterà in discussione. Potrebbe mettere in discussione, e chi invece vuole andare avanti, ma che non sa bene come. Dentro questa contraddizione si tratta di uno strato parassitario, e allora il richiamo al feudalesimo, come dire, per certi versi è immediato, perché i rapporti, per esempio, clanistici che ci sono all'interno della nomenclatura, che tipo di relazioni hanno tra chi sarebbero veramente i dirigenti, no? cioè i direttori rossi, i direttori delle fabbriche, e la nomenclatura è un rapporto estremamente complesso, è estremamente particolare, e che pone questo problema. Per cui la mia è soltanto un tentativo di dire: attenzione, esiste un problema, c'è un problema di comprensione anche dal punto di vista non solo fattuale, ma di caratterizzazione di queste società, che comunque andrà sviscerato. La seconda cosa, se c'è stata una resistenza negli anni 90 oppure no, io penso che c'è stata una resistenza che è stata una resistenza in parte passiva e che ha assunto addirittura dei caratteri politici. Gli anni 90 russi, dal punto di vista degli sviluppi politici, sono stati completamente dimenticati, ma a Mosca ci fu un'insurrezione nel 1993 dentro una dinamica particolare, eccetera, il famoso lo scontro tra il Parlamento e Yeltsin, ma che sotto rimandava a una situazione sociale disastrosa. E poi ci furono le famose elezioni del 1996, le famose presidenziali del 1996, in cui tale era il rigetto del processo di privatizzazione che era in corso in Russia, che la maggioranza era pronta a votare per Giugano, e non pensate che tutti erano comunisti o stalinisti, è chiaro che non era così, ma volevano porre un punto, un freno. E Yeltsin, allora, 2 anni fa sono stati, Bill Clinton ha deciso di pubblicare le sue telefonate con Boris Yeltsin. Questo non c'è stato nessuna cosa, io avevo proposto a quel tempo al Manifesto di fare un lungo articolo su questa cosa qua, ma una cosa, ma domani abbiamo altre cose più importanti, poi se ne sono dimenticato. Ma in cui sono trascrizioni, per cui a un certo punto Boris Yeltsin dice: qua c'è un problema, che quello lì mi rischia di vincere le elezioni, e qua bisogna mettere in campo una baracca di quattrini, non solo per la propaganda elettorale, bisogna, come dire, spesa pubblica, raffica, cioè qua devono circolare l'oro. E Bill Clinton dall'altra parte gli fa: ma quanto hai bisogno? E lui fa: ho bisogno di 3 miliardi di dollari, così glielo butta lì. Così. E Bill Clinton dice: non c'è problema, 3 miliardi di dollari. E tutto questo, quando è uscito, Putin, non direttamente lui, Peskov, che è il suo portavoce, ha avuto una reazione stizzita, perché è chiaro che è una cosa contro Putin, perché Putin lì dove è arrivato è stato, ce l'ha piazzato Yeltsin, no? Pupillo di Yeltsin, e chiaramente si inserisce dentro, come dire, una reazione americana generale contro Putin, cioè è giocata così, ma dal punto di vista storico, questo è l'aspetto politico, ma se lo vogliamo vedere dal punto di vista storico, è evidente cosa è successo, no? È evidente cosa, come dire, che tipo di resistenza, come dire, ripeto, passiva, ma che assumeva anche dei caratteri politici. Prendeva. Io sono estremamente convinto, forse poi se non ci sono altre domande possiamo chiudere qua, che io nel libro chiudo con una... Io dico, è una provocazione, che il secolo breve non è finito. Cioè il secolo breve non è finito. 1791 non è finita lì, perché? Perché è evidente che nella società russa, come dire, in modo diversificato, c'è una spinta, chi la chiama egualitarista, chi vuole la democrazia, chiaramente c'è un sacco di illusioni ancora sulla democrazia occidentale, soprattutto nella gioventù moscovita, eccetera, eccetera, ma questo è realizzabile? Tutto ciò è realizzabile, e questo non è evidentemente un'illusione che presto, come dire, verrà a galla. E quindi, se la questione, di come molti si pongono in modo diversificato, è la questione della democrazia, se la questione della democrazia in Russia non si possa porre in altra maniera se non accompagnandola ai processi di emancipazione sociale. Se questo fosse vero, come dire, la rivoluzione in permanenza teorizzata prima da Marx e poi ripresa da Parvus e Trotsky è ancora lì. Adesso io la butto lì così, ma secondo me dentro, come dire, la matassa russa c'è questa possibilità, esiste questo spazio. Grazie per questa speranza. Oh, fa freddo, ma c'è una luce in fondo al tunnel. Ecco, una domanda, senza nessun problema, però se dite un po' cosa volete fare. Pensate di fermarvi per il film, visto che fa un certo freddino, allora sarebbe qui, perché oggi spero che sia l'ultima volta che stiamo all'addiaccio. Se possiamo anche riprenderlo, farlo un'altra sera, è l'unica cosa che non... Esatto, se volete fermarvi, volentieri, se invece per 2 persone conviene allora sì. Rimandarlo. Dite voi. Va bene, allora facciamo... Dai.